Tempo di Sport con Carlo Genta. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, buon pomeriggio a tutti. Apro con una splendida notizia arrivata ora, che è un bis mondiale di Giorgia Bronzini, mondiale di ciclismo a Copenaghen, vittoria allo sprint per Giorgia Bronzini nella prova femminile, ed è appunto bis di questa grande atleta. Domani vediamo gli uomini, dubito sapranno fare meglio quelli di Bettini. Andrea Zorzi, ciao, buongiorno. Ciao, ben ritrovato. Vedi, arrivi che tu, piacere. Arrivi tu e l'Italia vince un oro. Mi piace venire qua. Devo settimana dire che scorsa, invece, domenica, smettiamo di fare programma e l'Italia perde un oro, quella della pallavolo. Nell'ultimo collegamento c'era qualche... C'era puzza di bruciato. Esatto, esatto. La sentivano anche gli ascoltatori. Sì, sì, sì, è stato un peccato. Innanzitutto è stato un successo, nel senso che arrivare all'argento è stata una bella partita, un bel europeo, una buona squadra. Una squadra che, ripetiamo, non è giovane anagraficamente, ma lo è dal punto di vista dell'esperienza. Un bel europeo, mi è piaciuto vedere come hanno affrontato dal punto di vista anche dello stimolo, dell'approccio emotivo, queste partite. Alla fine pensavo effettivamente che potessero, dal punto di vista tecnico, giocarsela veramente con i serbi, e poi viene fuori ormai una cosa di cui io e te parliamo spesso, perché riguarda il mio sport, che è la pallavolo, uno sport che piace a entrambi, che è il basket, ma c'è quella gente che viene da quella zona lì quando c'è da giocare, che prima di batterli sono proprio bravi. Vi do anche un'altra notizia di cronaca di ora, che è la pole position a Singapore. Pole position che va, indovinate un po', Sebastian Vettel, che domani al primo match ball mondiale deve arrivare sul podio e sperare in una serie di combinazioni favorevoli. Però se non lo vince domani, lo vince la prossima volta, lo vincerà lui, accetto scommesse anche dagli ascoltatori. A proposito, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, e poi Facebook e Twitter. Sai che siamo su Facebook e Twitter, social media, su Giorgio Di Luca, che mi fa una capa tanta, ricorda che siamo su Facebook e Twitter, lo faccio tutte le volte ma non è mai contento. A proposito, su Twitter NASA ha comunicato che il satellite a cascare giù è caduto, non ha fatto danni. Sai che questi giorni c'erano allarmismi, tutti preoccupati, oh, ci cade il satellite, non sanno bene dove è caduto, ma è già caduto e non ha fatto danni. Ecco, quindi tranquilli. I disfattisti, i catastrofisti sono serviti. Comunque, a Singapore, Vettel davanti a Webber, compagno di squadra, quindi terzo Button e quarto Hamilton e due McLaren, e poi le due Ferrari, tutti in fila indiana. Alonso, Massa, quindi Red Bull, McLaren, Ferrari, ed è un po' l'ordine del valore di questi team. Già che siamo in cronaca, e poi andiamo sulla chiacchiera dura, io e Andrea Zorzi, sui temi della settimana, perché abbiamo accennato, siamo partiti dal volley, poi c'è anche l'europeo femminile da inquadrare, che ieri è partito con un 3-0 alla Croazia, giochiamo grosso modo in casa questo europeo, e cerchiamo il pass per l'Olimpiade. Però, per esaurire la pagina della cronaca, vi do i risultati della Serie B. Ieri in anticipo Vicenza-Livorno 1-1. Nel pomeriggio la Sampdoria ha vinto 3-1 sul Prato dell'Albino Leffe, il Verona pure in trasferta 2-1 ad Ascoli, Brescia batte Cittadella 2-0, Grosseto batte Crotone 2-0, Gubbio Varese 0-0, tanti gol in Juve Stabia Pescara, guarda che strano, con Zeman in campo che perde 3-2, il Torino vince 2-1 sul campo della Nocerina, Padova batte Modena 2-0, il Bari vince 2-1 a Sassuolo, Padova, Brescia, Torino 14 punti, Sampdoria, Grosseto, Sassuolo 12. Europeo femminile. Dunque, un po' per diverso dove? Per provare ad andare a confermare il titolo, visto che l'Italia è campione d'Europa in carica, e poi provare a guadagnarsi la qualificazione alla World Cup, che, ripetiamolo, anche per le donne è il primo torneo che a novembre si disputerà in Giappone e assegna i primi tre posti per le Olimpiadi di Londra 2012. Un europeo che si gioca metà in Italia e metà in Serbia, guarda caso, quindi una formula che, devo dire, in questi ultimi anni in molte discipline sta avendo grande successo. I prossimi europei di calcio, a te piace questo europeo in condominio, in comproprietà, o non so, in duplex? Pro e contro. È chiaro che avere una sola nazione permette, come dire, una maggiore concentrazione, però mi piace questa idea della collaborazione. Mi piace perché in realtà va anche in favore di questa difficile organizzazione degli eventi, che hanno anche dei costi molto elevati. Certo. Così si possono suddividere, si può collaborare, ma si stabiliscono anche delle relazioni molto più strette che permettono di creare questa rete, che è molto molto importante. Si è parlato moltissimo d'Europa, se ne parla adesso in toni abbastanza negativi, però provate cosa vuol dire immaginare di organizzare un torneo dovendo collaborare a stretto contatto. Significa che la prossima volta, tra in questo caso Italia e Serbia, i contatti sono comunque molto più freschi, certo, molto migliorati. Quindi non è sufficiente questo dire che è una bella cosa, ma intanto è anche interessante capire cosa lasciano queste manifestazioni congiunte, ad esempio Corea e Giappone, per quel mondiale ormai lontano. Però quello è un tema: cosa lasciano le manifestazioni sportive ai paesi non ospitati? Lì, lì apriamo un capitolone di quelli, di quelli giganteschi. Eh sì, poi bisogna andare a vedere quali vantaggi e quali detriti hanno lasciato sul campo. Sì. Comunque dicevi, ragazzi cercano le Olimpiadi. Con un po' di difficoltà, con una squadra camaleontica, non tanto perché abbia la capacità di cambiare pelle durante la partita, ma perché cambia di partita in partita. Barbolini parte spesso con formazioni nuove, ha avuto il problema dei liberi che sono infortunati, adesso sta giocando con Leonardi, che però non riceve perché ha tre schiacciatrici molto brave. Mi dispiace. Ma non piace tanto sta cosa. Quella? Quella di partire sempre con soluzioni diverse. Non credo sia la sua. Non credo sia ciò che piace neanche a lui. Non ha scelta. Ci provi, lo fai, però no, non credo che lui sia così contento. Però Massimo ha avuto, secondo me, una capacità nel corso della sua carriera per davvero di adattarsi alle condizioni in cui era, cercando di trarne i maggiori vantaggi. Se lui avesse potuto, avrebbe fatto un'estate diversa, non ha potuto farlo. Quando c'era Agüero, vi ricordate, la squadra era molto più stabile, poi sì. Lei non c'è e stiamo ancora provando a capire come sostituire un atleta così importante. È chiaro che Agüero, una come lei, non c'è. Certo, non la sostituisci. C'è Giovanni della provincia di Milano, primo ascoltatore di oggi, che vuole parlare vuole entrare in argomento, in discussione, in questa discussione. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io sono quello che ho chiamato forse un 2-3 mesi fa, che ho chiamato tutti i pallavolisti boscaioli. Sì. E poi qualcuno mi ha preso Lucchetta, forse mi ha preso in parola. Ah. Io ho visto la partita di ieri sera delle donne, sì, della nazionale femminile, non ci ho capito niente. Che senso? Nel senso che non ho capito niente, chi picchia, chi fa, chi. Ah. Cioè, no, io non ho capito assolutamente niente, come non ho capito niente nella nazionale maschile. Io sono appassionato. Andrea Zorzi si gratta la pera. Anch'io capisco. Cioè, si riferisce alla velocità della palla, si riferisce alla tattica, si riferisce agli atteggiamenti emotivi, perché le regole sono rimaste quelle da un po' di anni, quindi non capisco bene a cosa si riferisce quando dice che non capisce. Non ho capito chi tira il coso, chi alza, cioè chi alza l'alo bianco ieri sera non c'è problema, no. Chi va a destra, chi va a sinistra, non ho capito niente. Beh, nel momento in cui non c'è un opposto che può giocare con tranquillità, Barbolini è costretto a cambiare un po' di formazione e ha tre schiacciatrici a disposizione che devono alternarsi, e questo non permette di avere i ruoli così definiti, diciamo camaleontica, con rischi, e però questa mi pare sia l'unica opportunità, perché evidentemente Massimo non ha trovato un atleta da far giocare opposta in quel ruolo, e questa è una delle modalità. Adesso c'è sicuramente più confusione in campo, ma ciò non significa che non si possa giocare bene. Ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24 è il numero verde, ma c'è un ascoltatore che abbraccerei, anzi abbraccio a distanza metaforicamente, Gigi da Roma, che mi fa un domandone, che ti fa un domandone, che però mi permette di entrare in argomento. Vai. Occhio, Zorro, punto esclamativo, quando cominci ad allenare? Arrivano notizie da Bologna, Obi titolare nella prima Inter di Ranieri, pare intenzionato a giocarsi anche Coutinho, Ranieri nel ruolo di trequartista, vedremo. No, non si gioca Coutinho, gioca Obi trequartista, dietro a due punte che dovrebbero essere Forlan e Pazzini con Muntari in campo. Beh, insomma, mi sembra che questo sia la grande telenovela della settimana. Meglio che ti prepari, caro Andrea Zorzi, perché tra un po' tocca a te. Arriva Moratti, il Moratti di turno della pallavolo. L'ho intravisto la settimana scorsa. A casa! L'ho intravisto la settimana scorsa, perché c'era la presentazione del libro di Gianfelice Facchetti, sì, sul padre, nello spazio Oberdan, ed è arrivato anche Moratti, che ha fatto un intervento parlando di Giacinto Facchetti. Bello, bel evento, bella storia, bella presentazione, perché c'erano alcuni grandi ospiti come Lella Costa, che ha letto alcuni pezzi del libro, molto belli. Ma tu vuoi fare allenatore? No. No, No, adesso il mai dire mai ci sta. Sono molto interessato a cercare di capire che cosa significa fare l'allenatore. Una delle ragioni che mi spinge a pensare che non sarei un buon allenatore è che non credo di avere più quella costanza per stare 7 giorni su 7 concentrato su una partita. Mi piace guardarla da di fuori, mi piace leggere le strategie, mi piace moltissimo, ma dall'esterno. E poi penso, ultima cosa, che un allenatore debba in qualche modo, non dico essere felice, ma tranquillo del fatto che in ogni istante della giornata gli può arrivare una telefonata che è un problemone da risolvere. Non deve essere in ansia perché aspetta la telefonata, ma sapere che questo è il suo lavoro. E quindi totalmente concentrato, pensare che le partite di pallavolo e l'allenare sono le parti più importanti, io non credo di essere in queste condizioni. No, devi essere integralista e soprattutto devi essere pronto a portarti il lavoro a casa, perché non credo ci sia un altro mestiere che ti porti a casa come quello dell'allenatore. Io come giocatore, già un po' diverso, ho fatto diverso tanto. Ho fatto con piacere, pensato solo alla pallavolo, per un sacco di anni. Adesso, siccome fare allenatore è ancora più difficile che fare giocatore, non credo avrei la forza per stare 24 ore al giorno concentrato sulla mia squadra. Senti Andrea, riviviamo mentre mi segnalano. Allora, a Bologna gioca Obi, ma va fuori Muntari, è giusto, corretto, bravo Giorgio De Luca. Coutinho trequartista alle spalle di due punte che sono Forlan e Pazzini. Questo a 40 minuti circa dalla prima di Ranieri, ma proviamo a rivivere anche per divertirci un po', insomma... Anche perché c'è stato il solito Mourinho strepitoso ieri. Va bene, allora la settimana dell'Inter, che Andrea Zorzi non ha seguito, adesso gliela racconto io. Allora, l'Inter perde a Novara, come ben sapete, e Moratti litiga con un tifoso. Sentiamo. Chi è che scappa? Chi è che ha detto che scappo? Che non può, non c'è da scappare. Infatti non sto scappando con mio amico. E allora sono qua, di fronte a te. Siamo stati superiori. Ma lo so, è vero, bravissimi. Nessuno dice niente. Vabbè. Non scappo, Sono qua, poi scappa Gasperi. Chi scappa? Scappa, no, non scappa, va via, mesto con il suo herpes da stress sul labbro inferiore, Giampiero Gasperini, il giorno dopo, come ampiamente pronosticabile, perché continuo a dire che Gasperini è diventato l'ex allenatore dell'Inter prima ancora di firmare il contratto. Quel giorno Moratti disse: Gasperini, ma per piacere. Chiaro che non lo voleva, chiaro che Moratti, quando non vuole un allenatore, e abbiamo ampie dimostrazioni, fa fatica a prendere i giocatori e poi fa fatica a stare zitto davanti ai 1000 microfoni ogni giorno sotto i suoi uffici, e questo fatalmente si riverbera su tutto l'ambiente. Andrea, guarda che sono 1000 microfoni anche per quello, perché Moratti dice sempre qualcosa, no, quindi... Ma piuttosto, da giocatore, se tu sai che l'allenatore non è così solido, se tu sai che l'allenatore non piace tanto al presidente, come ti comporti? È un limite difficilmente superabile. Cioè? Da giocatore tu ci provi anche ad essere attento, onesto, impegnato, a comportarti bene e sapere che il tuo referente è l'allenatore. Nel momento in cui qualcosa non funziona e tante sconfitte consecutive sono una buona ragione per sentirsi un po' sotto stress, appena vedi un qualunque possibilità di scavalcare, di difenderti, di deresponsabilizzarti, lo fai. Non c'è nulla di meglio che un presidente che in qualche modo identifica l'allenatore come uno dei responsabili. Per i giocatori la colpa è dell'allenatore, quindi lo tagli fuori, non gli dai più credibilità, non crei l'ambiente, quindi è difficilissimo. Questo è detto dalle persone dagli atleti per bene come te. Poi ci sono gli atleti meno per bene che dicono: ma questo qua meglio se va via. Ma io provo a vedere al contrario. Una società sa che la primissima cosa che deve fare è creare un contesto nel quale non si semplifichi la richiesta di alibi da parte dei giocatori. Li fai stare lì, non gli permetti di bypassare, non gli permetti di scaricare la responsabilità. Prima cosa da fare. Ma potrebbe non funzionare, ma se permetti questo, vai tranquillo che non arrivi in fondo. Certo. Senti, Paolo Dalodi, e poi ti faccio sentire, poi riprendiamo il romanzo nerazzurro della settimana. 800240024. A Paolo Dalodi si è aggiunto anche Paolo dalla provincia di Frosinone. Partiamo da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno a te due. Senti, io volevo esordire un attimino con l'orgoglio che ho avuto la possibilità di conoscere Andrea Zorzi. È venuto a inaugurare un torneo in provincia di Lodi tanti anni fa e l'abbiamo ascoltato tutti con l'emozione di ragazzini. Io ho 40 anni, sono 30 anni che gioco a pallavolo e non riesco a smettere. Ma a parte questa parentesi, volevo chiedere questo, una vostra opinione. Io ho l'impressione che con la nazionale maschile Viviamo ancora un po' nell'ombra di Velasco e di tutto quello che ha fatto la squadra di Velasco, da Zorzi a Lucchetta a Gardini. Questo è un altro bel tema, eh? Cioè il passato che ti porti sulle spalle. Secondo me sì, c'è un'eredità che nessuno riesce poi a riagganciare. Una vostra opinione, volevo sapere semplicemente da Andrea Zorzi, quanto di questa mentalità è rimasta? Perché io, seguendo le partite, ascoltando i time out di Berruto, ho l'impressione che non venga percepita dai giocatori la mentalità vincente che qualcuno cerca di trasmettere. Dunque, il peso della vecchia generazione, di cui sono molto fiero di aver fatto parte, è più mediatica che reale. Nel senso che è vero che poi alcuni media tornano sì, ma una volta sì, ma Velasco. Vale anche per l'Inter? Forse sì, beh, ma però più recente, cioè Mourinho è una roba. Ma vale? Secondo te questo discorso? O invece vale a distanza di anni, mentre nell'immediato il peso di quello che ha vinto Nell'immediato è proprio faticoso. È faticoso perché è un gioco quasi a perdere. Cioè, se vinci hai fatto al massimo come l'anno prima, se perdi è un disastro e quindi non c'è quella gioia di vincere. Quindi a partire da vincenti è molto molto difficile. Per quanto ci riguarda è talmente in là col tempo che è un'operazione che si fa così perché sono rimasti impressi i nomi di Velasco e Lucchetta, però effettivamente non c'è più un riverbero diretto sulla realtà attuale. Per quanto riguarda la mentalità vincente, occorre comunque applicarla a un ambiente che è cambiato moltissimo. E non mi riferisco che è cambiato in peggio, sono passati 20 anni, cioè è cambiato veramente tutto, il gioco è cambiato, le persone, i ragazzi. Di questa nazionale mi piace abbastanza perché dall'esterno, non li ho visti molto allenarsi, mi sembra un gruppo abbastanza compatto. Ci sono alcune cose che non mi piacciono moltissimo, per esempio i troppi lamenti di Berruto quando allena. Il giallo nel terzo set della finale ha pesato abbastanza, non è certamente la ragione della sconfitta, però ho l'impressione che talvolta Berruto esageri un po' in questo litigio con gli arbitri e non mi pare che sia un'indicazione particolarmente utile da dare anche come testimonianza ai suoi ragazzi. Sul tema c'è anche Paolo della provincia di Frosinone, dunque Gasperia di dopo. Paolo, dica. Buonasera, grazie di ospitarmi. A lei. Saluto Andrea Zorzi, che ho avuto il piacere di veder giocare. La mia domanda è sembra questa. Di essere a Caramba che sorpresa. La mia domanda è questa, riguardo la nazionale maschile. La posizione dell'opposto, cioè a me Lasco sembrerebbe un po' leggerino, cioè nel senso l'opposto dovrebbe essere uno all'Andrea Zorzi che tira giù sempre e comunque. Qui dovrebbe, allora opposto spieghiamolo perché molti lo sanno, ma intanto si chiama opposto perché parte in diagonale col palleggiatore, questa è l'etimologia del termine, poi l'opposto praticamente schiaccia e basta, schiaccia, salta a muro, ma il compito principale è di schiacciare ed è vero che nel corso degli ultimi anni, dagli anni 80 in avanti, l'opposto si è super specializzato e quindi anche fisicamente è diventato un bel bestione e io ero tra gli opposti classici. Il Brasile ha vinto per 5-6 anni con André Nascimento, che era 1,92 m, uno molto veloce e molto bravo. Quindi è vero che esiste un profilo, un modello al quale potersi ispirare, è altrettanto vero che gli allenatori sono bravi quando riescono a fare il massimo con quello che hanno a disposizione. Riguardo a Lasco, è vero che non è proprio come Milkovic, lo schiacciatore serbo, grande, grosso, muscoloso e bravo, è un pochettino più leggerino, è un mancino in quanto tale, ha alcune trovate molto interessanti, non possiamo aspettarci da lui che possa risolvere sempre e solo di forza le situazioni complicate che toccano gli opposti, ma questo non può e non deve essere considerato un limite per il livello che la nazionale italiana può raggiungere. 800240024 per far sentire la vostra voce. Io invece vi faccio, torno, insomma, salto di palo in frasca come facciamo sempre con grande divertimento e torno alle Gasperiadi, perché prima abbiamo sentito Moratti che litiga, la puntata del giorno dopo è Gasperini che viene esonerato alla mattina, al pomeriggio andando a rescindere il contratto velocissimo esce e parla così. I risultati sono quelli che determinano tutto. Molto, sono molto dispiaciuto, però si era instaurato un ottimo rapporto, peccato averlo dovuto interrompere. C'era molto rammarico da parte di tutti. C'è chi mi scrive, non so perché sinceramente, vabbè tu ormai odi tutti gli allenatori tranne Mourinho, sicché, ma non è vero, non è assolutamente vero, anzi mi sono mediamente tutti simpatici, mi aiuti? Compreso Mourinho. Io avevo avuto l'impressione, da scarso conoscitore del calcio, che la storia di Allegri e di Gasperini potesse essere teoricamente quasi la stessa. Sì. In realtà sembrano non essere in società diverse. Esatto. Perché così è, insomma. Ma vale il discorso, vale, poi lo facciamo anche per Luis Enrique, che ha incassato una fiducia vera da parte della società. La Roma sta giocando malissimo, tra il male e il malissimo, l'altra sera con Siena malissimo secondo me, eppure è lì, ma non mi pare nemmeno che rischi più di tanto. Io credo che un allenatore, soprattutto se ha la prima esperienza di questo tipo, devi essere uno che scegli sul serio, non deve essere il primo che ti capita, perché sennò è abbastanza un disastro. Gasperini è capitato all'Inter, non è stato scelto dall'Inter, non è stato scelto men che meno da Massimo Moratti, e dunque così è finito. È anche vero che se prendo un allenatore che gioca in una certa maniera, ma credo valga per tutti gli sport trasversalmente, se prendo un allenatore che gioca in una certa maniera, lo prendi, lo scegli per quello. No, non è che poi gli chiedi di essere diverso. Sì. Detto questo, deve essere anche un po' duttile se tu vuoi giocarti bene questa carta. E riguardo poi a fare quadrato, ad essere compatti nel sostenerlo, bastano messaggi molto più deboli rispetto a quello... No, Gasperino, basta molto, cioè basta non essere veramente convincenti nel sostenere il proprio allenatore per lasciare spiraglio a qualcuno che entra in questi piccoli spazi. Sicuro. Dopo la pausa che ci aspetta, oltre ad aspettare noi altri ascoltatori, magari 800240024, dopo questa pausa già vi dico che andiamo al secondo capitolo della storia, e cioè quello più divertente secondo me, e cioè Ranieri che parla di Mourinho e la risposta di Mourinho. Vedo già lì Ubaldo dalla provincia di Lucca, invece davanti a me Andrea Zorzi, con cui vorrei divertirmi un po' sentendo, prima di Ubaldo e dell'ospite che sta per arrivare, sentendo la seconda parte dell'interiade della settimana, cioè Ranieri, che ieri mi ha fatto ammazzare dal ridere quando ha detto queste cose. No, io non vorrei cancellare nulla, cioè io credo che nella storia dell'Inter sarà indelebile Elenio Herrera, sarà indelebile José Mourinho. Eravamo nemici, ma eravamo nemici anche per i media, per alimentare quelle polemiche, ma niente più. È un allenatore che ho sempre stimato, ogni volta che ci siamo visti in campo, fuori, a Nyon, ci siamo sempre salutati con molto affetto. Tutto qui, insomma, fa parte del lavoro di ogni allenatore difendere la propria squadra. Anche se c'è chi mi scrive, ma su, hai le foto del Mu con le candele, no, non è vero naturalmente, perché non è vero, però non so se è stata una paraculata più grossa questa o la risposta che è arrivata da Madrid. Io sono interista, non sono pseudo interista, io sono interista, a pesar de che sto qui hace un anno e mezzo, non mi ha dejado influenciar por nada, e se sono interista, sono interista, non sono pseudo interista. Y por eso, entrenador del Inter, puede ser quien sea, yo quiero el bien del Inter. Yo quiero que el Inter gane, quiero que el Inter sea feliz. El Inter pierde y no me gusta. El Inter gana y yo estoy contento. Por eso, como interista, a Ranieri, pues le deseo que sea tan feliz ahí como he sido yo. Mi sembra que la traducción no sea necesaria. Sulla valutazione della paraculaggine lascio la parola ai miei ospiti, Andrea Zorzi e Pierluigi Pardo, che ci ha raggiunti al telefono. Prego Pierluigi. Buongiorno, ciao Andrea, come va? Benissimo, prego, a te la parola, così vedo dove posso nascondermi io. No, la paraculaggine è un elemento, ma non soltanto adesso di Ranieri e Mourinho, voglio dire, credo che il dibattito sia un po' più generalizzato. A me piacerebbe ogni tanto sentire un allenatore che dice, o un giocatore che ci risparmia il pistolotto sul fatto che la Juve, l'Inter, il Milan fosse la sua squadra fin da quando era bambino, magari nella periferia di Amsterdam o di non so quale altro luogo del mondo dove della Juve, dell'Inter e del Milan oggettivamente frega poco. Questo insomma è un dato, mi piacerebbe, non so dirvi, è quasi un discorso sociologico, non so dirvi se è tutto sommato bene così, perché qua alla fine fa parte della nostra fascinazione da tifosi, da appassionati, e quindi al tifoso piace illudersi di questo. E quindi in fondo può essere una bugia, diciamo, detta così in buona fede, oppure se invece dovremmo avere un rapporto più laico, più maturo con tutto questo. Però insomma, poi alla fine anche chi se ne frega. Ranieri ha detto delle cose, diciamo così, un po' da captazio benevolente del popolo nerazzurro. È stato il rivale fino a un anno e mezzo fa, è una bravissima persona, un ottimo allenatore, un fiero rivale dell'Inter, tra l'altro insomma non ha mai nascosto di essere stato tifoso della Roma da piccolo, e certamente questo gli dava un po' di ispirazione in più nel periodo romano. Adesso ha voglia di vincere tutto con l'Inter, cioè se io fossi un tifoso dell'Inter non avrei bisogno di chissà quali rassicurazioni o di chissà quali patenti, però insomma il dibattito è aperto. Dibattito è aperto. A me, tu sai benissimo, Andrea, è sempre piaciuta questa schermaglia dialettica, schermaglia verbale tra Mourinho, Ranieri, tra Mourinho e, beh, tanti contraltari non ce li aveva. Meglio adesso Mourinho, Guardiola mi diverte molto. Ma su questo non c'è dubbio che, per noi che guardiamo, avere delle belle risposte piccanti è molto piacevole. Riguardo a questa strana necessità, che non si capisce da dove venga, di essere compiacenti, questo non lo capisco neanche io. Tanto lo sanno perfettamente che se Ranieri dice che è interista, non gli crede nessuno, non credo che i tifosi siano particolarmente contenti, anzi c'è anche il rischio che i tifosi stessi considerino in questa una sorta di mezza bugia con un obiettivo ben preciso. Quindi è molto più semplice dire per davvero quello che pensi. Se non sei stato tifoso di quella squadra, non significa che non puoi giocare in quella squadra o essere un buon allenatore, senza che questo significhi poi professionista nel senso negativo della parola. Non che io non me ne, però vado lì, faccio veramente benissimo il mio lavoro, con sincerità dico quello che penso, e forse è la strategia migliore, anche perché è la verità. Pierluigi, invece, domani commenterai per Mediaset la Roma, posticipo, ed è una partita non semplice per Luis Enrique, però prima parlavo con Andrea della diversità delle posizioni, no? Quella di Gasperini, difeso solo d'ufficio e poi mandato via ovviamente, e quella di Luis Enrique che sembra avere una fiducia più solida da parte della Roma, anche se non c'è molta differenza tra come giocava l'Inter di Gasperini e come gioca la Roma di Luis Enrique dal punto di vista dei risultati soprattutto. No, sai, la differenza è nella legittimazione che ti dà la società. Bravissimo. Che è un elemento fondamentale, perché pensa al Milan con Allegri l'anno scorso, insomma, Gasperini quest'anno è stato preso all'Inter dopo un casting infinito e con mille distanze, poi si è visto, perché poi questo indiscutibilmente, inesorabilmente finisce a incidere sull'autostima dell'allenatore, sul modo nel quale i giocatori lo percepiscono, sulla stampa che può essere più o meno aggressiva, quindi la società è molto forte. Io credo che l'esempio del Milan l'anno scorso con Allegri sia stato l'esempio dal quale ripartire, nel senso era un allenatore emergente, è stato accolto come se fosse veramente un allenatore già navigato per certi traguardi, è stato difeso, ha fatto delle scelte molto forti, quella di Ronaldinho su tutte, la scelta dei tre mediani in mezzo, e ha avuto l'appoggio da parte della società, e sappiamo che Berlusconi aveva delle altre idee, almeno all'inizio, e insomma, l'esempio secondo me è quello. Adesso la Roma ci sta provando con Luis Enrique, è chiaro che è difficile sostenerlo in un ambiente caldo come quello di Roma, se le cose dovessero continuare ad andare così. Io credo che su alcune aree abbia già lavorato molto bene, cioè il possesso di palla è già un risultato che lui ha raggiunto. È chiaro che questo possesso di palla però deve diventare un possesso di palla finalizzato a cercare la porta e il dominio sull'avversario, non un gioco, diciamo così, quasi sperimentale da Coverciano, sì. Perché in quello la Roma è molto brava, però manca la qualità davanti. Il problema è davanti, ecco, sì. Tornando al discorso della Roma ieri sera, il problema è davanti, vedere se finalmente questi tre giocatori, quelli che verranno scelti, faranno dei movimenti tesi ad andare verso la porta, perché per ora non si è visto nulla, e ho anche dei dubbi su un tridente così statico, sì. Con un attaccante centrale e due esterni, con i giocatori che a disposizione, sì, sicuro. Un'ultima cosa riguarda un tuo amico Antonio Cassano. Leggo Alberto Costa di oggi: allo stato delle cose non risulta che alcun frammento del satellite americano disintegratosi nell'atmosfera abbia sfiorato Antonio Cassano, e il dettaglio suscita diffusa soddisfazione, eccetera eccetera. Molto divertente questo corsivo di Alberto Costa. Al di là di quello, lo mettono a letto tutte le notti con la coperta termica, credo. Ecco, non ti sento più molto bene. Parlavamo di Cassano diventato intoccabile e unico. Anche perché non ce n'è altri nel Milan. No, ma in questo momento è intoccabile per forza maggiore, insomma, poi tornerà a essere toccabilissimo, sì. Secondo me, nel senso, quando poi rientra Ibra, che pure sicuramente ha espresso la voglia di giocare con Cassano, se dipendesse da Ibra la coppia d'attacco sarebbe Cassano senza alcun dubbio, poi comunque Cassano tornerà a essere toccabilissimo, secondo me ancora al 50%, al 60% dal punto di vista fisico è ancora veramente a metà. Con lui tutto è possibile, già quando Ian è morto e risorto sportivamente parlando già 3-4 volte, sì. Insomma, è passato da essere l'ombra del partito a un separato in casa, sì. In estate oggettivamente c'era la sua preoccupazione di voler giocare tanto, e onestamente questo Milan sembrava abbastanza improbabile, poi questo posto da protagonista se l'è preso. In questo momento mancano le alternative, con Cassano io non posso di avere certezze in un senso o nell'altro, insomma, però sicuramente questi stagioni gli può far bene, perché gli può dare quella fiducia e anche secondo me quella stima all'interno dell'ambiente, al di là di qualche articolo sempre un poco carino, che per lui è decisiva, perché per lui non è mai soltanto una questione professionale, certo. Per lui è sempre molto una questione di giocare a pallone con dei compagni di squadra ai quali deve voler bene, con un allenatore che deve stimare, per quanto possa sembrare poco professionale questo, ma alla fine la chiave tra un Cassano opaco e un Cassano ispirato. Grazie per Luigi, un abbraccio. Grazie, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Grazie per Luigi Pardo, e questo mi permetterà, dopo il traffico, di aprire un discorso delicato con Andrea Zorzi. Mentre Ubaldo, lei stia lì, tra un attimo la faccio parlare. No, discorso delicato su uno dei temi settimanali su cui mi sono interrogato. Pato, che ha poco più di 20 anni, che si è fatto male 11 volte in 20 mesi. E mi sorgono dei dubbi, ma sempre nei confini della legalità. Ho l'impressione che questo giocatore sia stato sviluppato muscolarmente in una maniera per lui insopportabile. Facciamo parlare Ubaldo, perché sennò gli si scarica il telefono. Buongiorno. Buonasera. Buonasera, grazie alla te. Volevo dire che io sono interista. Sì. Allora dico, se Mourinho era interista, con tutto il rispetto che possa avere per lui e quello che ha fatto per l'Inter, e non andavo a firmare il contratto con il Real Madrid dopo 30 secondi che ho alzato la Coppa del Campione. Ah, sicuro? Ecco. Questo l'è sicuro, guardi. Ecco, questo è sicuro. E allora, un'altra cosa, un allenatore, lei mi sembra che difenda Gasperini. No, non difendo Gasperini, che ha avuto le sue responsabilità in un contesto in cui non poteva lavorare, peraltro. Mi sembra che Guardiola nel Barcellona, se guarda le partite del Barcellona, Messi parte sempre più o meno dal solito posto, cioè da destra si accentra verso sinistra, sì. Bene? Sì, sì, sì. Ecco, non gli chiede a Messi di andare a giocare a destra, certo. Oppure se c'ha Messi non lo lascia in panchina, perché certo. Ora Schneider non sarà forte come Messi. Però è un super giocatore, no, ma questo è indifendibile, Gasperini, su questo dogmatismo, no? Ha detto io gioco in questo modo, quindi uno dei più forti trequartisti del mondo non lo faccio giocare. Questa per me è una follia, un'eresia totale, non c'è alcun dubbio. Io sposo totalmente, caro Baldo, il suo intervento da toscano vero, no, non difendo Gasperini, dico soltanto che non è stato messo nelle condizioni di poter lavorare, perché è delegittimato al trentesimo secondo, quindi non era possibile. Gasperini andava preso se gli rifacevi la squadra e creavi una squadra che andava bene per le sue caratteristiche, altrimenti lui arriva lì alla prima esperienza, quindi è difficile per lui avere anche rapporti con giocatori importanti come questi. Doveva imparare come si fa, e gli dai una squadra per lui sbagliata, lo delegittimi, come vuoi che finisce in questa maniera. Volevo parlare con te di Pato, perché questa roba mi incuriosisce. Cioè, io noto che non è possibile sia un caso, non credo neanche al fatto che nel 2011 non ci sia un minimo di prevenzione degli infortuni, che tu non conosca esattamente i giocatori che hai a disposizione. Io guardavo delle immagini di quando è arrivato, aveva 17 anni, era un grissino, lo guardo adesso, è grosso. Sì, sì, sì. E credo che per alcuni giocatori questo sia tollerabile, per altri meno. Infatti il dubbio è un po' quello, è di quanto sia sostenibile un aumento della massa muscolare, come questo è stato ottenuto, quanto sia pericoloso per gli infortuni muscolari che si hanno. Poi è vero che il calcio degli ultimi anni, ma in realtà lo sport degli ultimi anni, chiede prestazioni fisiche sempre superiori e quindi aumenta effettivamente lo stress a livello muscolare. Però voglio chiederti questo, Andrea, è necessario essere grossi per fare sport ad alto livello oggi, oppure essendo così irrobustito perdi anche alcune delle tue caratteristiche, ad esempio l'agilità, ad esempio la velocità, ad esempio lo spunto, ad esempio cose. Non c'è più questa sorta di dicotomia in cui sembra che chi è muscoloso sia lento e chi invece è un po' più smizzo possa essere più veloce. In realtà ci sono atleti che sono muscolarmente molto possenti e sono anche molto molto veloci, quindi le tecniche di sviluppo muscolare sono cresciute moltissimo. È però vero che quando la macchina, se hai detto un'altra volta, la porti veramente al limite, basta perché accada un piccolo incidentino, un problema. E quindi però gli 11 di Pato sono veramente tanti. Tra l'altro poi mi pare che il Milan Lab sia conosciuto per avere cercato di trovare una metodologia per capire quando gli infortuni stanno per accadere. Evidentemente è stato di fatto smantellato, ma infatti sono curioso le parole di Galliani dell'altro giorno. Ho convocato subito una riunione perché anche lui vuole vederci chiaro. Seguiamolo di più, è evidentemente è una richiesta molto specifica. Sì, che è anche l'idea che qualcosa non sia affidato per il verso giusto, perché mi sembra che anche con El Shaarawy si sia sulla strada del potenziamento, però ci sono, a parer mio, dei giocatori che tollerano probabilmente questo potenziamento muscolare anche a livello di tendine, e altri che invece lo tollerano di meno. Tu che ami il basket, ricordi Kukoč quando se ne andò dalla Benetton e andò ai Chicago, in realtà in un tempo relativamente breve cambiò veramente di forma fisico, senza però pagare in contanti, con tanti infortuni. Sì, stesso discorso grosso modo per Dalla Zempetrovic, per il povero Zempetrovic quando andò nell'NBA. Io voglio farvi sentire invece, per chiudere la discussione di oggi, questa bellissima scheda di Cristiano Bartelloni, così vi lasciamo con un altro spunto, voi che ascoltate. Il prossimo 2 ottobre si correrà il Gran Premio del Giappone, prova valida per il moto mondiale. Fin qua niente di strano, se non fosse che il circuito di Motegi dista solo 100 km dalla tristemente nota centrale di Fukushima. I piloti non volevano correre su una pista avvelenata dalle radiazioni, nonostante la decisione di spostare la gara di 6 mesi. La salute, prima di tutto. Poi, nel corso dell'estate, sono arrivati a mezza voce i ripensamenti di tutti. The show must go on, lo spettacolo deve andare avanti, sempre. E sono rarissimi i casi di stop durante eventi e campionati. Anche le Olimpiadi, tempio dell'etica sportiva, proseguono dopo l'attentato contro la delegazione israeliana di Monaco 1972 e la morte di Nodar Kumaritashvili a Vancouver 2010. Ogni volta ci si stupisce per la reazione degli atleti, che immediatamente smettono i panni del lutto e si accusano di pressioni sponsor e media, cono d'ombra impossibile da illuminare. Solo nel maggio scorso l'Italia vive il dramma di Wouter Weiland, morto al Giro d'Italia per una caduta nella discesa del Passo del Bocco. Si neutralizza la tappa successiva e si riparte anche per ricordare i propri martiri, perché lo sport è un catalizzatore di sentimenti, un focolare moderno intorno a cui si riunisce la comunità ferita. Ma ogni volta siamo costretti a domandarci quanto sia labile il confine tra ricordo e mancanza di rispetto. E questo è un altro bellissimo tema su cui riflettere. Infatti, the show must go on, question mark. Io punto di domanda ce lo metterei un po' più spesso di quanto avvenga. E cosa rispondi? Rispondo che forse una modalità per capire come comportarsi potrebbe essere cercare di capire quali sono le vere ragioni per cui si ritiene di dover continuare. Se sono ragioni... Io però ti dico, non demonizzo l'idea di continuare. Neanch'io. Però attenzione, se le ragioni sono esclusivamente di natura economica, ci penserei. Esatto. Se sono di ragione di sicurezza, ricordo qualche anno fa a Roma si fece una partita quando c'era il dubbio ci fossero dei problemi fuori, perché il prefetto disse no, se dobbiamo andare via 80.000 persone potrebbe essere rischioso. Non so se sia vero o meno, ma già la questione di sicurezza per me ha una... L'Aisella. Okay, io su clamoroso della storia. Infatti potrebbe essere interessante, lasciamolo come tema. Quali sono stati gli eventi drammatici che non hanno fermato lo sport? Secondo me quella volta l'Aisella, se non si giocava, era molto meglio. Sì, anche secondo me, ma perché non c'erano le condizioni emotive. Non c'era. Però in generale io non sono di principio contrario al far proseguire lo spettacolo se ci sono le condizioni emotive, ma per molte ragioni. Carlo, tu hai ragione, ma la mia impressione è il contrario. Cioè che in realtà non si fermi mai lo sport a prescindere, anche quando avviene qualcosa di grave. Non è che noi siamo pronti a fermarlo sempre. Non si ferma mai. Sì. Allora, se la ragione è legata a... è vero, si può, ma perché non lo fermiamo mai? È anche un'esigenza di normalizzazione certe volte. Mi segnalano giustamente l'11 settembre, vabbè, epocale, no? Che fermò tutto quanto. Mi ricordo la morte del Papa, di Carlo Wojtyla, che fermò quella domenica lo sport, insomma... Però, in molti casi è un segno di normalizzazione il fatto che lo show continui. Se questa fosse sinceramente la ragione principale, io sono convinto, come dici te, che non sia da demonizzare lo stop. Temo invece che molto più spesso sia una questione di praticità con risvolti economici. Se queste sono le ragioni principali o le uniche, lo sport deve fermarsi allora, più spesso. Facciamo così, Andrea, mi piacerebbe che Facebook e Twitter i nostri ascoltatori li utilizzassero, oltre che per chattare con le fidanzate, anche per mandarci qualche loro riflessione su questo tema che lasciamo in chiusura e su cui magari torniamo sabato prossimo. E magari la lista di qualche evento in cui lo sport non si è fermato e che invece doveva fermarsi. Fantastico, grazie ad Andrea Zorzi. Alla ciao a tutti. Andrea, grazie a Pietro Lacorte in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 7. Vi aspetto qui.